speranza che si aprano giorni positivi e rassicuranti. Consueta speranza che si aprano giorni positivi e rassicuranti. Nella consueta speranza che si aprano giorni positivi e rassicuranti. Consueta speranza che si aprano giorni positivi e rassicuranti. Nella consueta speranza che si aprano giorni positivi e rassicuranti. Positivi e rassicuranti. Positivi e rassicuranti, positivi e rassicuranti, positivi e rassicuranti, positivi e rassicuranti.